tutti. C'è qualcuno qua? CQ10? Hola. Hola, hola, hola. Hola CQ10. Hola CQ10. CQ10, c'è qualcuno in ascolto? Se vuoi dentifricio. Solo? Non c'è nessun altro? No, non lo so, è vero. C'avevo acceso, sono tornato adesso. E niente. E anche io ho finito adesso di lavorare, dai, un po', 20 minuti fa. Ah, no, io che ho fatto, ragazzi. Sto facendo un cazzo. Sono proprio imbranato oggi, è stata una giornata terribile. Anche io un po' tosta, oggi è stato abbastanza complicato. E questa specie di ricevitore provato, testato l'hai? A grande linea sì. Che disperazione, a volte mi fanno incazzare. La gente non ha niente da fare che cambiarsi. Vabbè, ciccia, non mi frega niente. Prova di lavoro. Come ti stavo dicendo, sì, l'ho provato, va benino, dai. No, non è... è complicato e non è consigliabile a uno inesperto, perché è molto complicato. Allora, di quei due CDR Sharp, di due programmi, uno è abbastanza intuitivo, lo entri subito, l'altro ha pochi filtri, controfiltri, prima di trovarti devi ascoltare le broadcasting 88-108, devi stare mezz'ora per togliere tutte queste larghezza di manga, deviazione, eccetera, eccetera, filtro stretto, filtro largo, ce n'è una marea di cose, ma marea, stiamo parlando decine e decine, moltiplicate per due o per tre. Infatti... Sì, e poi diventa, perché per fare ascolto veloce, un conto che si punta di lì a caccia di quella frequenza e non si muove, altro conto che fa ascolto in monitoring. Guai, infatti quello serio, lui in radio, c'è anche dei filtri, però lui dovrebbe ascolta, senza se e senza ma, capito qual è la differenza? Quindi puoi fare scansioni, puoi fare verifiche, puoi fare tutto quello che ti pare. Questi fanno solo tante cose, però c'è ci fuori di testa. Infatti a me capita che quando trovo qualcosa, quando sto a mettere il coso giusto, la trasmissione è già finita, come al solito. E capita spesso. Cosa volevo dire? Ne hanno fatto uno nuovo, non si chiama SDR Shark, proprio l'altro giorno l'ho letto, un radioamatore dice attenzione, c'è questo sistema nuovo, più evoluto, più carino anche a livello estetico, eccetera, eccetera. L'ho scritto da qualche parte perché ho scritto mi piace su internet, ho scritto interessante, però non mi ricordo, devo andare a cercare la cronologia per vedere di cosa si tratta, e lo stava vantando, ha detto guarda lo sto utilizzando ed è meglio di essere Sharp, più evoluto e più intuitivo, tutti dicono così, soprattutto quando le cose te le danno in omaggio, o quando l'animatore che fa la recensione è quello che li produce anche, capito? Così è facile. Ma poi quando c'è la casa, ma il tastino questo qua va premuto, quando sei in FM l'altro tastino va disabilitato, quando sei in AM, insomma c'è fuori il testo. Io lo so poi. Secondo me c'hanno troppe cose, cioè dovrebbe essere per dire versione, allora io quando faccio certe operazioni, per dire, facciamo un esempio, non c'entra niente, fatturazione elettronica, c'è modalità smart e modalità più veloce, cioè lenta, passo passo. Cioè uno dice no, a me mi serve questa pagina con queste informazioni, io mi voglio scegliere l'esmetter, la frequenza, la cascata e l'analizzatore di spettro, tutto il resto mi ha fatto inutile, tutte le altre informazioni. E scelgo la, poi voglio aggiungerci, ti posso dire, il filtro di quello, allora mi aggiungo nella videata, tipo come quando fai la videata del computer che ci metti le icone, fare una cosa del genere secondo me sarebbe più carino, ti metti solo quello che ti interessa, se poi vuoi aggiungere altre cose ti metti l'icona dedicata. Ma purtroppo non è così, ognuno vola la sua, se ti pariga, un casino. Io nel frattempo sto facendo anche altro, ma non si vede proprio il sole, per carità. Se tutto sbagliato, se tutto va a rifare, diceva Bartoli, c'aveva ragione. Eia, ma è passato Claudio stasera, no stasera, non è passato, boh, stasera stamattina, non me lo ricordo neanche, perché ero talmente indaffarato, forse tarda mattinata è passato, a ritirarsi quel vecchio che avevo io, quel rivecchio, non è vecchio, che tra l'altro era il suo, l'820 o 900, insomma, cosa c'è, l'820, quel mi manda a vedere se riusciamo a farlo riparare. Sì, ma sono fattoni. No, come, c'era certo che ce l'hai tu, no, un bel apparecchio della Icom, non è una cagata, quello senza tuni è il 711, era una cosa che avevamo fatto delle operazioni tempo fa, l'anno scorso con Claudio, che poi l'ho fatto mettere in mano a una persona, purtroppo c'ha quelli SMD, poi è passato a un altro laboratorio e ci ha rinunciato, quindi bisogna trovare un altro, mettere una scheda sostitutiva, tanto il danno l'abbiamo capito dove, adesso lo sta facendo spedire Claudio per vedere da uno un po' più attrezzato, vediamo cosa se ne riesce a fare. No, attrezzato, non sto scrivendo al 170 ICOM, che è diverso. Ciao, buonasera a tutti comunque. Vediamo se ne vale la pena. È una radio la 300 euro, non di più, 350, quindi vediamo se ne vale la pena ripararla, e se no pazienza. Ciao, buonasera a tutti. Ciao Cla, poi te ne sei andato, non ho fatto neanche tempo a salutarti. C'è tutto dopo andare a prendere l'aria. Ah, io ho capito, l'avevi già presa. Sì, perché l'hai vista in macchina, tutti te rincoglionendo. Sono passato stasera e stamattina con mia moglie, due volte sono passato. Secondo me tutti te rincoglionendo. Se continui a frequentare Gianfranco diventi più rincoglionito di lui. Ma guarda che tu sei rincoglionito, quindi se continui a frequentare a noi due devi dire, a me a te diventa proprio rincoglionito di noi. Ah, no, non mi ricordo quando sono passato, ho passato sulle 18:28, sono passato boh, alle 5, ma sono andato che erano più delle 5, era lì, un'ora fa e non te la metti. Eia, ti sto dicendo che io pensavo l'avessi già ritirata quando sei venuto a me, l'avessi accompagnata a casa e sei sceso giù da me, non viceversa. No, sono sceso da casa e mi sono fermato un attimo da te, ho detto sono andato in cartolibreria a prendere un altro che già ha chiuso il pacco, mi ha detto anche il messaggio a Marco per darmi l'indirizzo, così domani mattina parte, capito? E speriamo bene, certo se ci vogliono 300 euro per ripararlo, vabbè, vediamo. Vediamo un po', dai. Un bel messa male, comunque. Non era così quella radio, mi dispiace tantissimo. Gianfranco 820H è il modello che è uscito dopo il 275H e il 475H, prima del 910H. Una radio eccezionale, grande quanto il 440, bella e c'ha tutto, non solo i tuoni, ma c'ha anche altro. Sono entrato a salutarvi, ci sentiamo dopo se ci siete, se no pazienza, vai Roberto. Mica, stavo parlando oggi con un tipo, quello che poi mi ha venuto il monitor, stavo parlando eccetera eccetera, e mi ha detto sì, mio cognato è radioamatore all'Argentiera, però ha chiuso, c'ha un sacco di radio, mi ha detto un sacco di roba delle pezze della IAESU, dice c'aveva quel traliccio, lo conoscete questo? Mi ha detto il nome, però non mi ricordo, il radioamatore dell'Argentiera. Io lo so chi è, io lo so, ma non te lo dico chi è qua. Grandi problemi, va bene, ricco di persona. Riprendi Gianfra e ci sentiamo dopo se ci siete, dai. Ok, ciao. Ok, ciao ciao. Strano che non ci sia Natalino, sicuramente è sul tetto che sta piazzando l'antenna, perché lui preferisce queste ore, così non lo vedo nessuno, ho capito. Ah, era bravo, il nemico ti ascolta. Non sei sul tetto, come mai? Perché devo essere sul tetto, vuol dire che stavo facendo un'altra cosa, e sul tetto non ci posso essere. Natalino. Oh, dimmi. Dice che adesso c'è la sorveglianza armata vicino all'antenna tua, nessuno si può avvicinare, c'è il coso, sparano, cioè ti fanno l'avviso, attenzione, ti stai avvicinando e ti parano. L'antenna è ancora qua, non è ancora piazzata, tenga nei zitti Natalino, io forse sabato se tutto va bene la piazza. Tempo surdi, devo buscarmi un palo da 4 metri da un pollice e non so come portarlo qua, è quello il discorso. Scusa un attimino, tu vai da Marcetto, ti prendi due tubi d'acqua e si saldano due bulloncini, cioè due dadi di due misure, una più grande e una telescopico, che è così eterno, di da 2 metri, miglia e trubone. Da 2 metri? 2 metri più 2 metri, poi se lo vuoi fare da 3 metri, da 6 metri ne metri 3. Ma non so come trasportarlo, capito? Se no già c'è da 4 metri anche, tutto unico, da infilare dentro a questo che ho io. Ma a 4 metri avevo un camioncino a portarlo, a 2 metri te lo metti in macchina di lungo, che abbassi il sedile e lo schienale, lo fai uscire, cioè lo metti sino alla lunghezza del coso, del cofano di dietro, proprio lungo, se poi ti spunta qualche centimetro dalla sportella, tanto Marcello deve andare a Porto Torres, non è che deve andare all'imbara a prenderlo. Ma lo devo avere da 4 metri, come faccio a... devo infilarlo nel palo mio, quindi vuole tutto uno. Picchia, che 4 metri come fai a prenderlo? Devi andare con un camioncino minimo, non mica te lo carichi in macchina. Ehi, adesso vedo da cosa fare. Ehi, vai Gianfra. Ma Tali, perché non puoi mettere uno telescopico? Come faccio a metterlo telescopico? Lo devo infilare nel palo di cecchi, qua. Ma perché c'è già un palo e lo devi infilare dentro il palo, non c'è staffa, non c'è niente. Ascolta, quello che dove è attaccata l'antenna lo devo buttare via perché è di quelli fini fini e io ne voglio mettere uno di quelli a sezione grossa, però per l'antenna, capito? E quindi lo puoi fare telescopico, che problema c'è? Te lo prendi quei tubi grossi d'acqua? Ah no, non è fare. Vuol dire non è fare? No, non mi è capitato, è andato in armonica. E siccome sotto fortunatamente ci abitavo io, sentivo questo aereo, ho detto ma a quest'ora cavo c'è un aereo che vola sopra casa. E invece era l'antenna che entrava in risonanza, dobbiamo stare molto attenti, con quei pali tutti belli pieni, robusti, che poi tra l'altro a me mi sono pure piegati qua nel traliccio. Guarda, ci sono quelli buoni di pali zincati, che da me perlomeno hanno subito tanti venti, tante cose, sono ancora lì. Anzi, alcuni li ho anche riutilizzati. Natali, è un'antenna del cavolo che sta mettendo qui, non è una direttiva, quindi quei pali che vendono fanno più che bene, ti regoli con le sezioni e ci apporta, e soprattutto non corre il rischio di avere questi problemi di risonanza. Uno da 4 metri devo mettere zingato, come stavi dicendo tu, l'ho già visto. Sono 2 metri più 2 metri più 2 metri fa 6 metri, inizi, adesso non lo ricordo se era da 4 e mezzo, e lo spessore da, credo che voglia da 2 mm, una cosa del genere, non me lo ricordo, perché li ho presi anche da poco che li avevo cambiati, però vanno più che bene, non è che, ti dirò, erano all'acqua, erano in mezzo a tutta l'intemperie, sono ancora tranquilli. Se poi vuoi essere ancora più tranquillo, te lo vernici pure, di più ne vuoi. Già travato l'ebito, no, lo che c'ho io, solo per capirci. Sì, quello grosso dici. Ma guarda, per una Mantova non lo so. Io ce l'ho avuta la Mantova, ma di quei pali non ho mai messo, proprio ho memoria delle esperienze passate. Li ho messi sempre di quelli buoni, telescopici. Da allora erano anche da 3 più 3. Adesso mi hanno detto che non ci sono più, quelli fanno solo i 2 più 2. Però non ho mai avuto problemi. Problemi purtroppo ce l'ho avuti quando c'è stata quella famosa tempesta sull'antenna. Meno male era legata, se no se non andava male la cosa. Capito? Quei pali di quelle dimensioni fanno bene per cose un po' grandi, pesanti. Di lì ci sono 9 metri di palo, più l'antenna sopra, 9 più 7 metri, dai, 6 metri, 9, 7 e 16, sono circa 15 metri e 50 di tubi. Ma quei tubi, se tu li hai visti, hai visto quanto sono grossi? Sono uno attaccato all'altro, sono tubi da 2 pollici, cioè 2 pollici e mezzo, adesso, a scalare, e pezzi da, adesso mi sono, sono da 3 metri, forse da 3 metri, 3 più 3 più 3 dovrebbero essere, e ci ho messo i bulloni in acciaio inox saldati da 17, fatto. Qui sul palo, vabbè, certo se ti viene un uragano già te ne cade, però devi giocare bene con le ralle, ne ho messo una vicino a 90 cm dalla base del piantone e un altro un po' più in giù, giostrato bene, mica ne prende di vento in quella zona lì, eppure attenuto. Poi mi hanno dato quei pali di buona qualità, quelli che probabilmente stai dicendo tu Gianfranco, che sono da 2 mm mi sembra lo spessore del metallo, non sono di Adriati, di Città Mercato, di Bricomen, quelli ce li avevo, ce ne ho 2, 4, 6 metri più altri 8 metri, no, però ne metto solo 4 metri più gli aggiungo un altro metro e mezzo e faccio in modo da arrivare a 5 metri e più ci sarà l'antenna, e quelli sono pali buoni. L'hai visto quello che avevo in terra Gianfranco? No, non ci ho fatto caso, ma io li ho presi, gli ultimi li ho presi da coso, da Giorgio, da Giorgio Grassi, adesso non ricordo se veniva 25 o 27 euro l'uno, Fingatti, ne avevo preso 2 credo, perché dovevo fare degli innesti con gli altri che c'ho, infatti anche per quello vedi un grosso vantaggio, perché li sfrutti sempre, perché le misure sono standard, quindi non c'è problemi di nessun tipo. E li ho messi proprio su un'antenna che, a cui si è piegata la staffa, che ieri mattina presto ho riparato, anzi domenica mattina ho riparato. Quindi adesso crollerà il muro, presumo, però il palo è rimasto intatto, non si è neanche storto, a differenza di questi impiasti qua di Dalmine che pesano un accidente, ma ci allargano a tirarli su e poi vanno a piegarsi pure. Quello che c'aveva in terra in officina, che si è venuto sabato, non so se l'hai visto, quello lì è di Grassi, di Giorgio Grassi, da ore l'abbiamo preso di lì, non l'ho preso io, l'ha preso Salvatore Maestrale. Vanno benissimo, perché per le antenne leggere vanno bene, e certo non ci puoi mettere una direttiva di quelle HF, ecco, e lì ci vuole per forza un stralicetto, perché dentro ci fa anche la gabbia, la rottura e tutto. Poi quelli lì sono comodissimi perché hanno i dadi, se devi abbassare l'antenna per qualunque cosa non li devi gabbare tutto, quindi li abbassi, ci lavori, ci cambi il cavo, quello che devi fare, e la ritiri su, boh, è finito, 10 minuti, lavoro, e sei contento e felice. Con quello là invece devi stare attento, perché ovviamente se non si può abbassare devi toglierlo dalle staffe, ci vogliono 2 persone, insomma è un casino, ma è così, avanti Natalia. Io si può abbassare tutto quello telescopico che ho io, e sono già 9 metri quello, e più devo mettere quello. quello che esce fuori dal petto, almeno 4 metri, 3 metri da, proprio per farla risuonare l'antenna. Oh, un attimino il telefono, scusate, mi riprendete voi. No, l'antenna risuona a prescindere, non è l'antenna che deve risuonare, cioè l'antenna se fatta bene si suona. L'importante è che non risuoni il tubo, se no è un casino, nel senso di risuonare, nel senso che fa rumore, siccome non ci sei tu sotto, poi magari te ne vengono dicendo guarda che la notte qua sentiamo vum, vum, vum, vum, tac, tac, tric, tric, e cade la padella alla braccia. Io devo mettere almeno 4 metri, me ne sono 3-4 metri, da, per infilarlo nel palo che già c'è. In testa cosa c'è, sto palo, i dadi per stringere? E per forza ci gli hai i dadi per mollarlo e farlo scendere, il telescopico è quello che ho io. Quindi dunque, quanto sono la più alta antenna, l'antenna televisiva più alta, quanto è rispetto al palo? Come alte sono quelle antenne? Io voglio metterla alta, la mia, per non rompere le scatole. Poi non rompere le scatole è quella che non disturba. Però anche per la ricezione, perché adesso esce un metro fuori dal tetto e non sento nessuno, quelli lontani non li sento, che sono tappato. Quindi tutte le antenne TV sono sopra di te, sopra questa antenna? E sono più in alto, che sono quelle che sto dicendo io, quelle antenne, sono più in alto dell'antenna mia, che sono in un altro palazzo. Poi ti dicono perché uno serve in campagna. Infatti. Io la voglio alzare un po' l'antenna, anche per la ricezione. Cata, se non sento a coso, a Eugenio lo sento basso basso, almeno non sento nessuno. Natale, ma che microfono stai usando? Non stai usando quello che mi hai fatto sentire, quello manuale? No, sto usando quello da tavolo. Guarda, riesco a... sto facendo una fatica che non ti immagini ad ascoltarti, perché sento una televisione a tutto volume, la tua voce è di meno. Aspetta, perché poco fa è rientrata mia moglie e si è accesa la televisione, adesso è tornata uscita e me l'ha lasciata accesa, capito? Lo so, ma per cosa te l'ho sorpreso il microfono da palmo? Se poi stai con questo affare a manetta che ti amplifica sottofondi e non ti amplifica la voce. Quindi non amplifica nulla questo. Adesso che non c'è la televisione sì, si sente che è forte, ma se c'è la televisione è meglio non averne di quel microfono, capito? Questa mania dei microfoni a manetta, prepotenti. È la V508M. Figurati che è molto, presumo che sia molto più potente dei miei, che sono identici, che però sono su altre radio. Ma tutta questa potenza erogata, cioè il compressore come minimo a 1000, il Mackie Gain a 2000. Wow, adesso ha abbassato il Mackie Gain, compressore non ne ha questa radio. Io per quello che mi riguarda, per la città ti sento benissimo, poi gli altri, quelli abituati alle radio che ti assordano, ti diranno che non stai scendo in radio addirittura, probabilmente. Ah boh, non lo so. È che, aspetta, c'è un affare per regolarlo, magari è troppo alto questo microfono mi da sotto, però deve essere, ci vuole un cacciavite, non ho visto bene come si fa a regolarlo questo qui, dal Mackie Gain l'ho abbassato. Ma quello lì, guarda, non amplifica molto, più che altro dovrebbe comprimere la voce, è un potenziometro che è sotto, è un trimmer più che un potenziometro. Devi infilare un cacciavite e girare, cioè max e min. Ma se al massimo ti conviene lasciarlo al massimo, tanto non c'ha una grandissima preamplificazione quel tipo di microfono. Non lo so a quanto è, io non l'ho toccato, come me l'hanno dato lo sto usando. come alimentato, la batteria o tramite l'apparato? No, tramite l'apparato è alimentato. Infatti è la cosa migliore. Così si spegne quando si spegne la radio. Sono rientrato, signori? Infatti, forse ho calpestato a Roberto che è entrato a gamba tesa. Tu, calpestate, è una parola grossa. Calpestare a me, come ti sei permesso? Sì. Come ti sei permesso, Natalia? Io stavo premuto quando hai parlato tu, capito? Non adesso neanche a quello, già, non ti preoccupare. Ok, allora, chi è rimasto? Gianfranco, tu e poi è stato qualcun altro? No. Perlomeno per il momento no. Stiamo parlando adesso con quello del traliccetto, cacchio, non so come fare, devo andare a Movoro a prendermelo questo traliccio in tre pizzi. Sì. Se non sono troppo lunghi ti noleggio un furgone e ci vai. No, già ce l'ho quel camper, quello, c'ho due camper, io ne ho uno camper vero e poi quell'altro officina mobile, che si può mettere di tanto, sono due pezzi, tre pezzi da due metri, però non lo so, se andare con quello, perché è tutto bello pulito, nuovo nuovo, dovrei farmi delle cose per avvolgerlo. Vedi tu. E poi come lo porti su? Con una gruetta? No, che sono pezzi abbastanza leggeri, sono triangolari da 25 per 25, non è grande. In tre pezzi, poi lo metto sopra, devo fissarlo a parete su quel coso in cemento armato, l'hai visto? Quel pilastro in cemento armato, li faccio delle trappe in modo che non tocchi terra e poi li faccio tipo scalette per salirci sopra. No. E di lì cosa ci metti? La direttiva? Di lì dovrò vedere cosa metterci, però c'è il traliccio e poi, una volta che c'è il traliccio puoi fare quello che vuoi. Dipende se c'è il motore a meno. Naturalmente tutto in base alle cose, alle disponibilità di quello che devi mettere, non è che mi pongo il gozzo e vediamo un pochettino, però evito di mettere i pali, ci puoi salire tranquillamente, gli fai un carrellino leggero, l'hai visto tipo quello che c'ho di fronte a me, l'hai visto quel traliccetto che c'ho di fronte, Gianfra? No, non ci ho fatto caso. Oh, ma non lo volevi tagliare, cacchio, non ci hai fatto caso. Ma quello mi piace il carrellino, cioè non lo so se c'ho il carrellino, non credo. Certo che c'era il carrello, minimo 20 volte l'hanno sceso, tu non ci credi, all'inizio l'avranno sceso non meno di 20 volte, per dire ogni tanto per manutenzione, adesso magari saranno un mesetto, due che non lo fanno, ma prima ogni settimana non lo buttavano giù, poi lo risollevavano, lo buttavano giù, lo risollevavano, aspetta, ma cosa si offende chi? Probabilmente dovevano allineare le antenne, cosa che non è così banale, capito? Sì, ma cacchio, l'avranno sceso minimo, ma minimo per dirti minimo, perché per dire, lo portavano su, stava due giorni e poi di nuovo giù, 30 volte, 40 volte l'hanno fatto. Dico, non è che dovevano mettere una direttiva, cioè una parabola doveva essere millimetrica, tipo quelle che ci sono su nell'imbara, lì è un'antenna verticale. Sì, che sia anche verticale, però se hai guardato sotto hai visto che ci sono quelle a pannello e quelle ti posso assicurare che se sbagli il centimetro ti danno delle rogne enormi. Poi andranno verso la questura, penso, perché la rete principale, cioè il master, è lì. Oh, non lo so, sinceramente non le ho mai guardate bene, bisogna prendere un binocolo e verificare, le ho viste così, poi hanno tolto delle cose, le hanno rimesse, hanno fatto delle prove, io parlo all'inizio, ci sarà un tre anni quel traliccetto più o meno, e hanno messo prima delle antenne, poi le hanno tolte, ne hanno rimesso altre, eccetera, eccetera. Vai Natale. Devo lasciarvi quel Rix, per me che devo fare cosa. Vabbè Natale, già siamo qua, dai. Vai Gianfranco. Ok Natali, facci sapere come va a finire. L'antenna è una cosa rognosa. Più ne hai, più seccature ci sono. Non dirla a me le parabole, io sono sempre, le vite sono belle robuste e belle piene, hai visto che palo c'è, passante, nel senso le piastre sono da 3 mm passanti da una parte all'altra, tutto cemento armato di lì, però cacchio, contraccolpi, tu devi sentire quando ci sono certe zone di maestrale forte, proprio sembra che li prendono tipo un tamburo, e sono buone perché sono di qualità, sono in resina grossa, super resistenti, però tu dici c'hanno un po' di anni, bisogna avere nell'arco dei tempi, basta che si lesioni appena appena e poi magari ne metti un colpo di vento e te la porta via. Quello è il problema, che tu sei una zona abitata, se cade poi in testa qualcuno già lo sai come va a finire, è stato sempre il mio terrore quello. Non lo so, si spera sempre in bene, sono mezzo indeciso se tu gli ho la pala grande, adesso vediamo, perché è troppo pesante, se ne cade quella fa un bel di danno, anche la piccola, quella 135, farà danno, ma quella grande peserà 40 kg l'antenna, più ci sono altri 35-40 kg di motore, se te ne cade via tutta quella roba, vabbè, è praticamente impossibile, vorrebbe venire un uragano e sradicartene dal palo, toglierlo dal palo, il palo non si stacca, quello è poco ma sicuro, però se stacca l'antenna, bisogna solo sperare che rimanga da quella parte lì, col maestrale, se cade verso il terrazzo, se cade dall'altra parte sarà quasi impossibile perché è protetto dal palazzo adiacente, se no sono guai grossi, se te ne cade sopra qualche macchina o sopra qualcosa, non dico le persone, ma sopra qualche macchina. Io lo posso sapere quella, certo se arriva una cosa come quella che è arrivata negli Stati Uniti, cavolo, ne ha buttato le palazzine in muratura, quella non c'è da scherzare, è stato un casino, un bombardamento praticamente, hanno perduto tutto, casa, tutto, non c'è più niente, una cosa allucinante. Finché vedi quelle case che hanno loro, quelle in legno, tutte, non so se devi dire quelle trasmissioni che danno anche di ricondizionamento delle case, sono tutte in legno, con pareti in carton gesso, quelle fa bene. Di lì, ma in questo caso c'erano qualche casa in muratura e si era magnati, le ha devastate proprio. Sì, poi tornando, sono venti che arrivano anche a 300 km orari, poi se sono uragani anche di più, e cosa vuol dire? Quelle velocità ti porta via le persone, te le risucchia, te le porta, figura, io ho visto dei escavatori pesanti tonnellate ribaltati dal tornado. Cose brutte, speriamo di non avere mai a che fare, anche se da certe parti d'Italia già sta iniziando a capitare cose simili. Speriamo bene. Stavo pensando, ce ne andiamo in bande nostre? Tu accordi in 21? No, parlo nel coso, nei 2 metri. In 2 metri, non mi piacciono tanto, io di norma preferisco l'UHF. Però volevo fare una prova in realtà su un broncospina per vedere se transito, ma tu non ce l'hai forse, quello 775. Broncospina? No, non credo, io Monterraso lo prendo, però broncospina credo proprio di no. Monterraso, no, è qua dietro, è dietro l'angolo. Infatti dico, per te ce l'hai bello pure, ti ripeto, già l'hai visto che antennaccio io e che cavo c'ho, adesso se Dio vuole sabato, se riesco la metto sull'altra, quella grande, è ancora dentro la scatola, non l'ho neanche aperta, mai mi hanno dato un pezzo di fil di ferro dentro, non ho avuto neanche modo di aprirla, ci credi Gianfranco? Ce l'hai presa a Napoli, ti hanno messo il forattino sicuramente. Guarda, non l'ho presa a Napoli, però ormai non bisogna fidarsi nemmeno dei lombardi, per dire, no, c'è una ditta seria quella, ho preso 2 cose, abbiamo comprato da lui e posso dire sono stati molto onesti, poi il titolare è una persona molto gentile, ti richiama, a Claudio l'ho fatto prendere il MC60 e ce l'ha fatta a buon prezzo, mi ha detto attenzione che c'ha un problemino sull'up down, loro l'avevano messo su un altro apparato della Kenwood, lui ci ha detto Claudio no, funziona benissimo, e me lo porto, cioè poteva anche negarlo, nuovo, messo il veicolo di Claudio, il nuovo fiammante, 80 euro spedito, ci abbiamo diviso le spedizioni. Ma cosa la 7000? Scusa, non ho capito. È la 7000. Quella che ho preso io è la 7000, sì. C'hai 1200, non si sa mai. Almeno c'hai, tanto c'è la poca differenza, pare 15-20 euro di più. Infatti mi hanno consigliato prendere direttamente la 7000, che c'hai 1200, un domani che vuoi fare qualcos'altro ce l'hai già pronta. Non ho capito. Niente, io non so dove andare, l'R0 cioè, mi annoia un po', ecco. Non siamo di fronte, quindi potrebbe andare a comunicare anche con la torcia elettrica. No, volevo andare, come hai detto tu, in U magari, 433 525, proviamo, che tanto per farlo camminare il TS2000 che è fermo. Vabbè, ma possiamo anche far camminare la KF volendo, che sarebbe più. Ma il KF è quale? Va a cordare, coso? No, c'era quando non ho le antenne, Gianfra, preferisco non sovraccaricare niente. E poi sta scattando l'orologio, per me tra poche ore di cena. Se riesco a rifarci al tavolo, oh, io cammo di schiena, mamma mia. Oggi però non si è sentito nessuno. Aspetta, facciamo una chiamata sul canale 10 internazionale, avanti che vuole entrare. Natalino è in QRX. E la lettera a Babbo Natale è fatta, l'avete? No, è troppo vecchio, ha detto che non ce la fa neanche lui a arrampicarsi sui tetti. Io cacchio, gli ho mandato una PEC, però non so se sia arrivata. No, sicuramente no, perché lui è all'antica ancora. Gli omi sono rimasti ancora al francobollo, figurati. Ma poi adesso non ne usano più di cose, prima c'erano le raccomandate, le cose, eccetera, eccetera, francobolli. Poi c'era la PEC, adesso dice anche lui, ci ha messo il tetra. Allora già non riceve niente. Proprio col tetra. Tetra civile ha messo, non quello militare. Forse si riesce a mandarlo, io ci provo anche col tetra, vediamo. Più che altro potessi mandare un tetra pack con del latte, magari da cioccolata. Ehi, Natalia, tu fatta la lettera. Ehi, gli ho detto di mandarmi una bionda di scorta. Poi Natalino è la fetta sua, mi Natale, cosa vi credete? Non è vero Natalino? Sì. Ma poi la cosa bella è che Natalino si chiama Natale, come un altro cugino suo, Natale, ne conosco tutti e due e non è nato Natale però. Ci hanno dato il nome di nostro nonno. Che non è nato a Natale neanche lui. Non ne conosco più di una, conosco due amici, uno è morto poverino, e l'altro nipote, si chiamano tutti e due Natale, zio e nipote, però sono nati a Natale tutti e due. Gianfra, a te il mic. Sì, stavo provando sempre quel ricettore. Sono curioso di vedere quanto è la cosa lì, la larghezza di banda, come fa il filtro, se riesco a combinare qualcosa. Ma di quel programma SDR Sharp, quello più carino esteticamente, però è complicato, esiste un manuale d'uso? Se c'è, ci sarà in inglese. Ci sono riuscito a sincronizzare. Sono in 160. Oh, c'è tanta gente. Comunque, quella trasmissione di Gianfra, quella di Marcuni, a 1323 dice che la prolungavano per tutta la settimana, invece erano balle, ma l'ho fatta solo il giorno 12 e io sono riuscito a farla verso mezzanotte, quell'ora di lì. Ho fatto anche un bel video, si vede bene, si vede bene, si ascolta bene, Santiago 7 addirittura, dei picchi a 8 e oltre è andata. E ho riprovato tutti i giorni, a 1323 non c'è niente, invece c'è, la facevano andare anche oltre per una settimana, invece nulla. Ascolta, faccio un esperimento e mi devi dire se li senti bene o male, se c'è qualcosa da perfezionare oppure se va bene così com'è. Ovviamente adesso te lo mando, smetteranno di parlare, presumo. Ci provo. Ma qua su 10? E tanto siamo noi, un attimino, non è che... a ricordarmi, sì. Chissà se ci va. Ma dove? Dove salire? È molto in alto per capire. Cosa? Devi salire in alto o scendere in basso? No, di qua un attimino. Mi dici se la voce è comprensibile. Però devo abbassare qua perché sennò mi fa il suo rumoraccio. Ecco, vediamo un po'. Si sente? Sì, sta bollendo il caffè, che cos'è? No, aspetta. Come dio vuole? No. Chissà perché non mi dai comandi questa mamma mia. Che esasperante che. Mi ha detto che non si sente. Sì, sembrava il caffè quando sta bollendo. Ma perché? Io dico, ma perché? Ma perché? La pepina fa caffè. Perché? Perché le devi importare l'uscita che ti dimentichi sempre di importare, che attualmente non è dove deve essere. Se te l'ho detto io, anche tu, perché non me lo ricordi? Ho visto infatti che non l'ha schiacciata il dato, ho visto questa lucetta spenta, ho detto no, forse sta usando l'altra lucetta, invece... Vedi un po' cosa succede ora. Insomma, non sono tutti uguali, ecco, secondo me di questi tu sono quelli che conducono prima rispetto ad altri. Ecco, se lui lì ha tutta la caduta lì sullo strumento... Com'è? È comprensibile o sempre una cagata? Abbastanza comprensibile, però non è chiarissima, rimane un po' impastata come cosa. Se parla troppo veloce non riesce a capire, ho capito lo strumento, non è un tipo sardo sicuramente dall'accento. Beh, è in 160 metri, quindi è a 1847, e le ho ristretto molto il filtro, tra le altre cose. E questo è il ricevitorino, cioè la scatoletta, capite? Che essendo poi in banda laterale non puoi certo pretendere il wifi. No, allora ti è andata bene, no, pensavo fosse un altro tipo di emissione, qualche cosa a voi. No, neanche da parlarne. Volendo poter fare la conversione con un digitale, ma è inutile perché sono apparati fatti per fare quei lavori. La KF invece è sempre un pochettino cattivello perché è monello, capito? C'è il problema che qualcuno slitta, c'è il problema. Oh, devo dire per quello che comunque questa apparecchio mantiene un po' le promesse. È piccolino, è una serie di altre, però perlomeno sulle gambe basse è molto molto molto stabile. Ah, una domanda, tu stai usando quello SDR Sharp, lo stesso che mi hai fatto a me, ti appare quella pagina lì? No, qua, di quelli lì credo che ce ne scano 30 da questo attrezzo. No, la pagina dove ti appare la frequenza, analizzatore, tutti i filtri, è sempre uguale indipendentemente dalla chiavetta che metti? No, questo c'ha un programma proprietario che si chiama SDR1. Poi lo posso usare con S... L'ho messo anche a secco, non me la metto con... SDR, che non è Sharp, è Sharp R, quello lì, e poi funziona con SDR V3 console, e poi anche con l'altro che lo gestisce direttamente, che si chiama HDLS, una cosa del genere. Che funziona ugualmente, quello non mi ricordo se te l'ho messo, comunque io ho messo il programma ma non te l'ho ancora configurato, il nominativo, quindi in teoria non potresti trasmettere. SDR HD mi sembra ma avevi messo pure. SDR HD, non me lo ricordo, non me lo ricordo più, troppa roba. posso far roba. E poi cosa c'era? Ricordo, niente, come sta andando, nonostante i disturbi che sono sempre in HF, sembra che se la cavichi bene. Ciao, Natalino, ci sei ancora? C'è qualcuno che fischia? Avanti che fischia? Oh, Santiago 7, molto basso. Chi sei? Avanti? Adesso non fischia più. Il fischietto si è rotto. Vai, Natalino, ci sei ancora? Sì, io sono qui. Anche il fischio sta risentendo, c'ero io nell'11 alfa. Allora eri tu di Splatter, al canale 10 sentivo uno fischiare. Infatti stavo fischiando perché stavo accordando. Dunque sei 9 più 40 adesso, abbassa un pochettino la carica esplosiva. No, perché lì ce l'ho con effetto pure. Ciao Tattalino. Ciao Claudio. E che si dice, che si dice? Tutto bene? Tutto bene. E tu dai, e tu dai. Va bene, dai. Sono qua, Robè. Dammi la tavola. Sì, un bel potente. Se no, che cosa il controllo? Sì, se uno non è potente non fa terrare gli aerei, vero? Andiamo. Sì, ciao Claudio. Sto anche ascoltando un'altra parte, facciamo delle prove. Riprendi, Roberto. Sì, troppo forte pure la radio, sì, a parte mia, comunque già va bene, già è chiara, niente da dire. Vediamo se c'è qualcun altro su 10 che vuole entrare. Beh, c'è che non tocco niente, è sempre regolata a 2, 1 e 8, 1.8, questo è 430 però, con il supplemento. Sì, andiamo a vedere. Ok, Natalino Alfa 1, avanti a te il mic. Eia, narami tutto. Fatto l'hai questo lavoro che stai facendo? Eia, mi stavo misurando la glicemia, dovevo mangiare, capito? Ecco cosa dovevo fare. Eia, valori giusti, regolari o che cosa devi prendere? No, non devo prendere nulla, insuline devo fare solo una alla notte, le altre me le hanno tolte perché prendo una pastiglia che è una bomba, funziona benissimo. Sono contento, dai, meglio diminuire se possibile il numero delle pillole, prendere una che ti rende la stessa efficacia di quelle altre, magari che sono mave, magari ti davano altri problemi, meno se ne prendono di cose medicali e meglio è. Ok, Gianfranco, a te il mic. La pillola blu stai prendendo, attentomi che rimani incinta. Allora no, mi ha tolto le insuline e sto prendendo una pastiglia al posto di queste tre insuline, una pastiglia solo al giorno, però funziona benissimo. Meglio, come le cose funzionano è meglio di evitare di prendere altre cose supplementari. Va bene, sto facendo pulizia qua, ripetilo. Ehi, volevo provare le U con questo, col 2000, perché normalmente sto andando in V, magari se c'è qualcuno che ci può andare. Non c'è la frequenza, quella 433-525. Sì che ce l'ho impostata, se vogliamo provare di lì con coso, con Gianfranco. Prova, io ti sento, però non rimango perché... Sto facendo cosa, Roberto? Sto mettendo a posto qua, corretto, devo cambiare tutto e adesso ho tolto anche un'altra radio. Vediamo, ho commentato, vedrai il colpo che prende quella lì, mamma mia, lì. Non avete immaginato, Non ho capito il colpo che prende? 820H, quando arriva al centro assistente, lei come sto mandando, non lo sto mandando a... Radio Bambino Apure, non sono al 170 ICOM ufficiale, quelli lavorano a 16 euro l'ora. 16 euro all'ora, al minuto? Vabbè, non è che scherziamo. Però lavorano bene, la radio è riuscita, no, ma se spendo un bel soldo di pazienza, è un bel luce, tanto. Per buttarla via, meglio metterla a posto. E certo che sì. Vabbè. È andata così, ma era una che non ha fatto la radio, stavo parlando, ha iniziato a essere sorda, poi non si intendeva più nulla, e poi non è più andata né alla ricezione né alla trasmissione, quello come dice lui. Tutto, io già venuto in avuto abbastanza, anche per radio, allora vi dico l'unica, vabbè, comunque dai. Non problema. Avanti, le pelle fai girare. Sì, vediamo Gianfranco se ha ultimato le operazioni di bonifica. Oh, c'è qualcuno sotto che sta parlando. Chi è avanti? Oh, siete qualcuno? Santiago sì, 7 qua. Sotto però nel fondo lo sento. Oh, io non sento niente. Se lo sento io, vuol dire che la cosa è critica. No, stavo togliendo, Roberto, non so se hai visto, nei lati, no? Ci sono quegli affari in cromati, quelle viti cromate, belle, quelle servono per mantenere la staffa. Quindi li fanno sparire, poi dicono no, non me li ha mandati, quello allora li sto togliendo, capito, li sto conservando, perché se fanno sparire quelli, sai quanto costano quegli affari originali ICOM, eh? Lo sai tu quanto costano? Costano 5 euro, 50 l'uno. Si ti va, infatti ci ho pensato anch'io, non te l'ho detto, però ho detto forse è meglio che ne li tugli queste cose qua, che anche se c'è altre cagattine, tappi, quello che si mette davanti per il micro, come sempre toglierne tutto, cavetti e cavettini, e poi già c'è, se no poi magari lo smontano, magari non per rubarselo, si dimenticano di rimetterla. Non le sto mandando niente, nulla, niente, c'è la radio nuova e cruda, sto togliendo tutti gli opzionali, perché se li fottono, non te li mettono, se li tengono. E la cosa, il cavetto l'hai buscato un cavo per quella radio? Sì, ce l'avevo io, Roberto. E infatti io non ne avevo, io per farla funzionare attaccavo quella del 440, non ne avevo altre, quell'altro cavo mi pare trovato a te del 140. Sì, ce l'avevo io. Ce l'avevo l'altra senza cavo, perché intanto sono uguali, come tempo di cavo di alimentazione sono uguali, se fosse stato uguale anche il microfono, se avrei usato la 1060 invece di usare il 508. Vabbè, adesso vediamo, domani poi mi avrò un altro, mi faccio l'indirizzo e ci pulisco tutto. Sì, stavo parlando poco fa, da Gianfranco Natalino, quel tipo che mi ha messo quei due tralicetti da 6 metri in tutto, 2x3, sì, neanche altri, ha detto anche roba più grossa, mi ha detto già ti vanno bene, devo scenderci a Mogono, non so come fare, se andarci col camper quello nuovo, che mettermeli dentro di lì, oppure trovare qualcuno, ha detto vieni col portabagagli, te li carica, ha detto ma scendi col portabagagli, ha detto no, già sono leggeri, tanto, 3 pezzi da 2 metri, vediamo un pochettino, se riesce a buscare, gli ho detto ma non puoi venire tu qua, no, un camionista, qualcuno che fa un giro, no, ho detto non mi viene in mente nessuno, chissà che canta niente, basta in Kiwi. Allora ci sono, perché sono 3 pezzi da 2 metri, 3 pezzi da 2 metri ci stanno alla 147, ok, chiude il cofano fino a zero, con l'elastico come ho fatto io, quindi quando vuoi andare me lo dici, però bisogna togliere i sedili lì davanti, ok, mi togli i sedili davanti, tu sai come si toglie, e tutti i sedili dietro, capito? E li portiamo giù, non c'è problema. Ho detto lì, perché non si può reclinare il sedile? Cazzo, se sei andata e faccio una bella di un sedile, ma il sedile mi fa scaricare. Ah, vabbè, già sono due viti, togliono una fesseria da coso, però se acciappi l'imbecille posto di blocco, dice come mai hai tolto il sedile? Perché non vede che c'ho il nostro carro pieno. Se trovi quello del coso, sai che tu non puoi modificare i sedili della macchina, perché tu c'hai un furgone a 6 posti, e hai tolto 2 posti per caricarti dalla Roma, non puoi farlo, non è adatto per il trasporto merci, è stato fatto per il trasporto persone, viceversa se c'è un furgone, proprio furgone, trasporto merci, ci metti i sedili, è la stessa cosa, perché qualcuno dice esci, mi metto un lettino dietro, mi trasformo in letto dei sedili, non si può fare, non te lo permette la legge, è una fesseria di legge che abbiamo in Italia, in America puoi fargli su che voi in Germania, in Italia abbiamo delle leggi proprio allucinanti. Che avanti? Cacchio, ti sentivo tutto disturbato. Avanti, Cla. No, capito manco chi è. Sattolo a Fischi. Gianni doppio rum, però sto facendo sto a Fischi e a Fiaschi. Infatti io non ho capito che era lui. Ciao Gianni. Ciao Gianni, ordina che ci metto quell'antenna, era impazzita, dice che non stai andando bene, te l'ho già detto, non sta andando bene, sei sacro, cazzo ti ho sempre mandato la modulazione, tu. E allora per esempio che ti sento male, adesso sei anche a Fischi, ti prendischi, che prendi? mi fammi sentire. Guarda, pare che vai un patato in bocca. Non so voi, ma io lo sento male. Non vorrei sbagliare, Roberto. Sì, confermo già, sembra che c'è una cosa in bocca che ti tappa la bocca, perché ti stai mangiando le parole. Ma male già, se non ti ho mai sentito oggi male. Lo sai che per me sei il numero uno, la radio tua è bellissima, ma in questi giorni sei veramente impressionante, cioè non riesco a ascoltarti bene. Tattali, tu lo senti? Per me è uguale. Sembrava che avesse una patata in bocca, come hai detto tu. Ma cosa stai usando già? È l'antenna, la carica non sta andando bene, anche se l'ho riparata.